Vorrei affrontare il tema del migliorare se stessi. È chiaro che si può migliorare se stessi in modo da in realtà peggiorarsi. Se l'ego prende per buono il dovere di migliorarsi, è chiaro che non facciamo che peggiorare. Però esiste un miglioramento che ha a che fare con l'anima. Ricordiamoci la definizione di essere umano che dava Sergio Bartoli, disperato tentativo di un'anima di far evolvere una personalità. Disperato nel senso che la personalità non gli dà retta, l'ego non dà retta, la piccola mente non dà retta. Migliorarsi, quando intendiamo migliorarsi dal punto di vista dell'anima, significa lasciare andare l'ego, è tutto lì. Ed è una cosa talmente diversa da quella a cui siamo abituati pensando a migliorarsi che di solito non la comprendiamo pienamente. Pensiamo che migliorarsi sia eccellere in un certo settore. Primeggiare, no, non è niente di tutto questo. Significa portare in attualità ciò che è in potenzialità, tutti i talenti che abbiamo, non aspettano altro che di essere messi in atto, non per primeggiare su altri, ma per servire gli altri. Cioè noi siamo una cellula di un grande corpo e se come cellula facciamo ciò che è il nostro potere fare, stiamo servendo questo corpo, altrimenti lo stiamo tradendo. Adesso faccio degli esempi molto concreti. Mettiamo che uno di noi finisca al pronto soccorso, si è rotto un femore, viene operato dopo poco e il chirurgo che lo opera si è occupato di tante cose tranne che di migliorarsi. Beh, l'operazione è fatta male. E noi dobbiamo soffrire per dei mesi o degli anni, forse per tutta la vita, per conseguenza di un errore fatto. Ora, un chirurgo, se ha coscienza, si migliora per fare più soldi, per avere successo, o si migliora perché lo sente come un dovere etico, qualcosa che va fatto? Ecco, pensiamo ad andare da un dentista che gli fa un impianto sbagliato. Questo ti comporta a spendere soldi e non solo, ma ad avere poi qualcosa che non ti serve, ti fa soffrire e così via. Quando io ho iniziato l'attività di psicoterapeuta, ho avuto dei ragazzi difficilissimi, ne andavo in supervisione, mi dicevano: ma come fai a prendere casi di questo genere? E devo dire che ho fatto il possibile, ma soltanto il possibile, che era in base alle competenze che aveva loro. E probabilmente se oggi avessi incontrato questi ragazzi sarebbero fuori dai loro problemi. Perché probabilmente in questi anni ho dedicato del tempo a comprendere meglio questo. Ora, se noi facciamo un'attività che incide sugli altri e quindi gli altri dipendono nel loro benessere dal modo in cui la svolgiamo, penso che sia un compito, come esseri umani consapevoli, di farla bene. Non essere perfetti perché non è possibile, ma farla al meglio possibile, no? Ognuno la fa al meglio possibile. Albert Einstein ha scritto alcuni pensieri molto interessanti su questo. Dice perché viviamo e diceva proprio viviamo e parlava della mission degli esseri umani in generale. Viviamo in un mondo dove siamo stati preceduti da altri esseri umani che l'hanno reso migliore. Naturalmente uno può dire non è Infatti. vero, e guarda, ti dico che è vero, perché oggi vedi qui in questa casa ci sono 21 gradi, se fossimo stati 300 anni fa non ci sarebbe questa casa, vivremmo probabilmente in un posto dove ci sarebbero 6 gradi, la nostra vita a 30 anni saremmo già vecchi, se ci capita qualcosa saremmo morti e così via. In Europa la vita media era 30-40 anni, insomma, no? Quindi abbiamo fatto un progresso sicuramente. Fino a poco tempo fa le persone andavano in piazza e come spettacolo vedevano torturare qualcuno, ucciderlo. Ora ci occupiamo di diritti umani, guardiamo i diritti delle persone. Se una ragazza, una donna viene lapidata in qualche parte del mondo e c'è una mobilitazione, è pur piccola, ma c'è una mobilitazione. Una volta non si sarebbe mobilitato nessuno, neppure se succedeva sotto casa, era considerato normale. Quindi c'è un progresso dello spirito in generale dell'uomo, no? L'uomo, come tutti gli esseri viventi, tendono ad andare verso livelli più alti di complessità e quindi di spiritualità. Ecco, volevo dire questo perché quando si parla di bisogni umani, beh, Rogers tra i bisogni umani ha messo quello di attualizzare se stessi, auto-attualizzarsi. Attualizzarsi vuol dire portare in manifestazione le potenzialità che si hanno. Ripeto ancora una volta, questo lo si può fare a partire dall'ego e allora si genera dei danni, oppure si può partire dall'anima e allora si fa ciò che va fatto. Ecco. Quindi c'è un equilibrio, l'anima, diciamo l'essenza, la nostra essenza, la parte più saggia, la mente profonda, ha un'intelligenza superiore al nostro ego, vede le cose connesse, ha una visione non duale, ci vede collegati a tutto ciò che c'è, che poi è la realtà che la fisica quantistica oggi conferma pienamente. E quindi migliorarsi che vuol dire? Vuol dire che noi ci prendiamo un impegno nella vita. Ad esempio, stamattina leggevo ciò che sta succedendo nella mala sanità in Calabria, è qualcosa di terribile. L'ospedale di Locri ci sono nel pronto soccorso, l'ospedale, una ventina di medici collegati con la mafia, infermieri messi lì dalla mafia. In quell'ospedale ci sono cavi della luce che pendono dappertutto, c'è sporcizia ovunque, 30 centimetri di guano di uccelli sui balconi, cioè una cosa. Mancano le apparecchiature e uno dice: beh, ma perché lo Stato non provvede coi soldi? E invece sì, attraverso le nostre tasse noi paghiamo la sanità in Calabria, altro che, solo che la maggioranza di questi soldi vanno nella tasca dei mafiosi, i quali hanno ben compreso cosa vuol dire migliorarsi, cioè vuol dire migliorare la propria situazione economica, comprarsi delle ville, comprarsi degli yacht, cioè fare questa vita qua. Allora bisogna distinguere bene tra questi due livelli. Va bene, mentre leggevo questo articolo ho pensato, ho avuto due possibili reazioni, una quella depressiva, l'altra no. Quella depressiva dice: guarda che mondo viviamo, non ne voglio sapere nulla, quindi non c'è niente da fare, mi ritiro. Ma questo come cellula di un organismo più grande, che cosa significa? Cosa significa se una cellula del nostro sistema immunitario dicesse: no, tu ci sei ammalato, io mi ritiro, me ne vado per conto mio? E se questo lo facessero non una cellula, ma il 90% delle nostre cellule, qual è il nostro destino? La morte. Ogni cellula fa i fatti suoi. Ecco, quello è ciò che accade oggi nella società. Ognuno pensa solo a se stesso. Ed è la malattia sociale. Ora, l'altra reazione che ho avuto sentendo, vedendo il discorso sulla mafia è stata completamente diversa. Ho detto: beh, vuol dire che c'è molto da fare. Vuol dire che se le persone si sono ridotte in questo stato, vuol dire che la loro consapevolezza è così bassa da combinare simili nefandezze, e vuol dire che c'è molto lavoro da compiere. E chi lo deve compiere? Chi è in grado di farlo? Non posso chiedere a una persona che non è in grado di fare quello che non può fare. Però le persone che lo possono fare, che hanno occasione, che hanno le condizioni, quelle è bene che si interroghino su cosa conviene fare. Io sono abbastanza convinto del fatto che cosa accade? Se di fronte a una simile grida, delle grida del mondo, cioè sono le urla, le grida del mondo di disperazione che ci sono, se diventiamo sordi a queste grida del mondo, noi siamo già morti. Non è una vita, la nostra è una falsa vita, è una vita individualista che non va da nessuna parte, non potremo avere gioia, avremo dei momenti in cui stiamo un po' bene, ma di fondo ci sarà depressione, che è dovuta al nichilismo, cioè non credere più in nulla, non avere più fede in niente. Questa è una malattia che molti giovani oggi hanno ed è dovuta al tradimento spaventoso che le nuove generazioni hanno ricevuto. Ora, io credo che di fronte a questo dolore che hanno questi ragazzi giovani, anche di famiglie che stanno bene, e di fronte al dolore di situazioni come quella della mala sanità in Calabria, che poi vanno viste in Changtown, vuol dire che una bambina va in un ospedale lì, ha mal di pancia, la mamma dice: ma visitatela, e la visitano, e dopodiché dice: ma bambina non ha niente, l'ha mandata a casa, e la casa è morta. Cioè, sono queste le cose che succedono, non sono cose piccole, muore una bambina che era sana, che poteva essere curata, e viene mandata a casa. Ecco, queste sono le conseguenze. Pensa in quella famiglia che cosa accade, quella madre che Natale passa, ecco, poi andiamo in giro a comprare regali di Natale, ma se avessimo un minimo di coscienza e volessimo essere persone gioiose, noi dovremmo unire le nostre forze e sapere cosa fare nella nostra vita. Non c'è più grande gioia nel mondo che donare se stessi, è l'unica vera grande gioia quella. Amare vuol dire donare sé, cioè dimenticarsi di sé e fare ciò che c'è da fare. Questo l'hanno fatto i grandi uomini, per questo siamo ancora qui a portare rispetto a loro, perché giustamente lo meritano. Ma tutti noi possiamo essere grandi persone. È solo la questione di uscire dall'ipnosi che ci relega in un individualismo disperato e disperante. Ecco. Capisco che questo discorso per alcuni può sembrare, ah, però vivere in un mondo così, benissimo, puoi vivere in un altro mondo, che è quello della fantasia, certo, puoi vivere in quello, puoi crearti dei mondi fantastici, però quello non può dare la gioia, quello dà è anestetizza. Oggi una persona che non prova dolore per quello che c'è nel mondo è staccato dal mondo, e chi è staccato dal mondo non sta più vivendo. Quindi forse vivere significa soffrire quando c'è da soffrire e gioire quando c'è da gioire. E se rifiutiamo il dolore necessario, nello stesso momento stiamo precludendoci la vera gioia, che è la gioia di essere totalmente presenti nella realtà.